Qui tu fache me ge bazi la la Afa e magorisa e baloindra o Bai e be bagelumbu niwa ama Lelainya na leluma sozomba aga He zaman elau hanal oroma so hagubang iba dada mofan le olohi dada na ilau angi hula fodo kenya humombole kafi Zuni di soba dabi, refilo bawa dasa zamagi. Tohare iraboha gani di sehi. He zaman elau hanal oroma. Gafi.